Allora, intanto abbiamo voluto anticipare la mostra come preview in concomitanza con i 50 anni di Quadrofegna. È uno dei pezzi, diciamo, delle rarità più stimolanti, a mio avviso, della mostra è proprio l'unica Vespa originale utilizzata dal film, insomma. Questa la vedete già in vetrina alla Biffi Arte, dove sono esposti molti oggetti rari, iconici, simbolici. Abbiamo poi tutto lo spazio del nevaio della galleria che celebra gli Who in questo modo, sottolineando il rapporto tra estetica ed arte che ha sempre contraddistinto non solo le loro opere, penso a Tommy, a Quadrofegna appunto, dalle rock opera ai film di Ken Russell e di Rodham, ma anche per esempio le copertine dei dischi o l'atto di distruggere gli strumenti che Pete Townshend a un certo punto prende ispirandosi a Gustav Metzger, anche se in pochi lo sanno. Gustav Metzger è questo artista concettuale che vive l'installazione artistica distruttiva come una ricostruzione, una possibilità di costruire una società migliore dopo la guerra. Questo in breve per dirti che chi visiterà la mostra potrà trovare sia immagini ufficiali che tra l'altro ci ha fornito la band da Londra, sia immagini inedite che ovviamente abbiamo scelte. Direi che tra queste spiccano senz'altro quattro fotografie di Filippo De Orchi, che è riuscito a immortalare gli Who nel 1972 a Roma, e anche due immagini di Carlo Massarini relative a un concerto al Charlton del 1974. Poi abbiamo ovviamente altri oggetti e anche uno spazio dedicato ad opere d'arte. Alcuni artisti, pittori e illustratori appassionati del gruppo hanno realizzato espressamente per la nostra mostra alcuni dipinti che possono essere sia ritratti della band ma anche ispirazioni a canzoni o a simboli. Ecco, proprio a proposito di questo ti volevo chiedere come entrano in dialogo le opere di artisti contemporanei che appunto citavi adesso con quelle, diciamo, più classiche tra virgolette di fotografi, oggetti da collezioni che ci stavi raccontando. Come avete messo insieme il tutto? Guarda, abbiamo messo insieme il tutto grazie a un'amicizia che ci lega un po' tutti. Nonostante la distanza, perché per esempio Mauro Di Silvestro e Francesco Cabras sono a Roma, Andrea Canetti a Bruxelles, Matt Dillon abita a New York, Cosmo Vinyl si divide tra New York e Londra, però grazie a questa passione in comune e a una conoscenza che poi è diventata anche amicizia, siamo riusciti in qualche modo a sentirci, a vederci via Skype, a trovarci con alcuni, in alcune occasioni anche di persona, e nel corso delle settimane precedenti abbiamo fatto una scelta che secondo me riesce alla fine a raccontare veramente tutti i vari passaggi della band. Per esempio Cosmo Vinyl, che è stata una figura molto importante nella Londra degli anni 70 e 80, è stato un braccio destro dei Clash, gli Unruly and the Blockheads e quant'altro, immortala gli Who proprio ai loro inizi mod, quando ancora il gruppo si chiamava The High Numbers, mentre Matt Dillon fa un trittico dedicato a una canzone degli Who del 66 che si chiama Happy Jack. Poi abbiamo invece un'installazione importante di Silvia Rastelli che ha un riferimento espressamente a Tommy, e altre cose molto interessanti che si accompagnano via via ai vari percorsi anche epocali, alle fasi degli Who, quella più importante fino alla morte di Keith Moon nel 78, ma anche quelle successive. Abbiamo gli Who a Live Aid, gli ultimi concerti con John Entwistle che poi morirà nel 2002, e anche alcuni scatti delle reunion, quelle più significative, fino proprio allo scatto finale che ha fatto Marco Zatterina al concerto dell'estate scorsa a Firenze. Ecco, oltre alla mostra ci saranno anche dei momenti di incontro come il 14 ottobre con degli ospiti speciali. Sì, noi abbiamo già fatto un'apertura in cui c'è stato uno showcase di Giampaolo Corradini dei Substitute, molto seguita. Poi noi abbiamo organizzato e continuiamo a farlo, anzi l'invito è di iscriverci anche alle pagine social e quant'altro, visite guidate sia per visitatori che arrivavano alcuni dall'estero, perché ovviamente grazie a voi media, chi magari ha passaggio a Milano, a Venezia, a Torino, sa che c'è una mostra degli U, essendo amante del rock, fa una scappata anche a Piacenza, e moltissime scuole. E devo dire la verità, non mancano eventi collaterali. Il primo, come tu dicevi, sarà il 14 sabato alle ore 17, ci saranno Marco Zatterini, vice direttore della stampa, che è anche un grande appassionato degli Who e firma i testi del catalogo della mostra, che dialogherà insieme a Carlo Massarini. Penso che non ci siano bisogno di presentazioni, nel senso che Carlo Massarini è sicuramente stata una delle voci del giornalismo rock più importanti in Italia, no? Anche grazie all'epoca che è riuscito a vivere, a trasmettere, prima in trasmissioni radiofoniche, poi a Mister Fantasy sulla Rai e quant'altro, insomma. Poi ci sarà sicuramente un incontro con Antonio Pellegrini, che ha scritto un libro, anzi un paio di libri incentrati sul rapporto degli Who con l'Italia. Nelle ultime reunion abbiamo avuto la possibilità di ospitare i loro concerti, ma in epoche anche storiche l'ultimo concerto degli Who in Italia risaliva al 1972, sono tornati nel 2007, quindi Pellegrini giustamente il 4 di novembre si concentrerà su questo aspetto, sul rapporto tra gli Who e l'Italia. Poi faremo sicuramente un finissage, ma dopo la chiusura della mostra, perché Matt Dillon ha previsto un incontro a Piacenza con una proiezione. Stiamo però aspettando, essendo lui impegnato sul set di un film, di poter fissare una data. Ma comunque questo e quant'altro verrà sempre tenuto aggiornato sulle nostre pagine social. L'ingresso è libero, quindi insomma vi aspettiamo, anche perché è una bella città Piacenza, ci sono tante belle cose da vedere, quindi la mostra è una ragione in più.